quando tu sei scesa dentro me, ho capito che non era bello niente, perché niente come te. E tu, in un quadro di Van Gogh, ti eri persa tra i sentieri, ma dove eri prima di toccare me? Da quando poi, innamorati o no, ho capito che eri come ti immaginavo e che eri proprio te. Mi fai stare bene, mi fai stare bene, di stare bene non mi stanco mai, mai, mai. Mi fai stare bene, mi fai stare bene, sembri l'alba di un mondo che siamo noi. Shabada. Giocavi insieme a me, mi parlavi di un amore misterioso, e io geloso poi di chi? Di me. E non mi accorgevo che ero già nei tuoi pensieri e non capivo, non volevo, non lo so. Mi fai stare bene, mi fai stare bene.